Sono in ascolto, avanti Bacchì. Attento Bacchisio, cambio. Attento Bacchisio. Bacchisio, Bacchisio, cambio. Attento Bacchisio, Bacchisio. È arrivato, ok. Marino. Ciao, ciucu ciucu. Ciao, Gianmarì. Beatore, buongiorno. Ci piove. Già piove. Almeno c'è una rinfresca, abbiamo troppo caldo. Allora, che credo? Anche troppo. Per carità, ma fa bene, là. Già fa bene un po' d'acqua adesso. Rinfresca ancora, è meglio, dai. Avanti l'amico, che macchina, chi è? Cristian. Ciao Cristian, salutone, ben sentito. Ma che è proprio di merda, sta piovendo bene. Va bene, sì, un po' di acqua già ci vuole, ma un diluvio. Sì, già lo so. Sì, va bene, aspetta un attimino che devo telefonare a uno. E io che... E beh, Gio Maria, mi sento io adesso, con questo apparecchio. Gio Maria. Attone! Fruscia. Fruscendo. Caffè di Parigi, boh! Io stavo facendo cosa? Ho capito, col telefono, ho dovuto mandare la fotografia di questo apparecchio qua a un amico, capito? E se lo vuole comprare. Ah, stavi parlando con Pinocchio, ma io non lo sentivo, ma dove era? Boh, si è stato in giro per Sassari, per lui di solito va a portare il cartone, capito? La porta mona, va coso. E perché non lo sentivo? Sentivo a te solo e basta. Capa. E adesso volevo trovargli di quelle antenne lunghe, a Pinocchio. Ne aggiù due. Di quelle antenne per i portatili, quelle cinesi. Adesso io uno di questi giorni le verrò. Ma il tre, cosa ne fai il tre? La siccia, formaggio, quello che è. Bene. Beh, avanti là da mangiare. Ci sentiamo stasera a Tonè. Ciao. Attento Gio Maria. Gio Maria, dormitoci. Gufo. Attento gufo. Famone. Ma niente, se ti si mangia i gacciucci. Famone. Merenda sui venti, Anfamone. Cosa? Ti vengo dai nonni, se mastichetti. Ah, te ne avuti. No, ma ho mangiato un po' di cosa, di macedonia. Ma lo so che ti vengo dai nonni. No, sta andando a fare la spesa. Ancora andare lì? Voglio trovare tu, ciao, mi giù, il senti. Ah, vai adesso. No, domani non me ne forzo. Perché domani è venerdì, così. No, domani non me ne forzo, domani esce così. Perché a casa mi giambo esce. Ma semmai oggi non te ne devi fare. Perché domani è venerdì, appunto, non te ne fai domani. Tanto, sabato e domenica, lo sapete la piazza. Tu così fai? Allora... Sabato non si lavora, oggi si lavora a fare. Tu non ti intendo. Detto, intanto sabato e domenica non lavori, cosa ti lavori a fare domani? Ma è vostro gusti. Se ne va a guscia. Pippa, se sente la vendetta, già a travagliarmi. Giamari! Avviso, invece sarei già la vendetta, già a travagliarmi. Sì, Giamari, sta andando a Europi. Certo, si basta per dare se sei andato a travagliare, boh. Abbiamo già dato noi, Gio Mari, già dato. Va bene. Adesso vado a Europa a fare la spesa. Oh, frappì. E a frappò. Se qualcuno ascolta. Luca, morbito sei? C'è nessuno? Mi sentite? Tutti a coccoi, tutti a coccoi. Ciao Bacchi, tutti morti sono. Tutti a coccoi sono andati, grazie a buonasera. Buonasera, ben sentito anche a te. Tutti morti sono. Siccome ha piovuto, grazie, sono andati a Lumache. Sono tutta ciocca, va. Ehi, fatemi vedere. Avrà avuto. Provava indigeni. E allora, in campagna non ci sei sceso? Sì? Sempre in campagna, grazie, sempre. Se non vado in campagna sto male. E fai bene. In guerra con un microfono, lo sai. Il gioco l'ha già detto, aveva la sua cosa arrendi, era malato, aveva via droga e panza. Mal di panza? A chi non funzionava? Basso di zigiscia. Non fa nulla di strano. Aveva una capsula che non si può ciambare. Saldata esattamente sulla basetta, dunque non si può cambiare. Io pensavo si poteva giambare, invece no. Allora, torna a salda tutto e la fase di automutinaggio. Se è così vuol dire, non segui, non funziona. Ma poi si faccia nelle cose, macchine. Se facciamo noi non si può fare un microfono, capita. Noi pure questa prima era mezzanta, zilli, e questi se mi fasciati. E allora, ma prima o poi ci barra canto vuoi. Un microfono originale, che era, via. Originale, orinale, non originale. Ehi. E purtroppo anche quelli si rompono, si barra il muro e non si può barrare il microfono. Purtroppo è così che va, cosa vuoi farci? Si dà biglietti se spiffero. Se non si barra la roba, non si ne compareggia e non si fa di travagliare niente. Dico, se guasto e dunque travaglia un altro operaio in più, a chi vede il lavoro. È logica, adesso su quello ce lo butti a un operaio e ne va di un altro nuovo, più modernizzato. Lo fa sempre più moderno che dura ancora più poco. E allora, va, così è. Non sentite, né Luca né Luca, vabbè Luca era travagliente, oggi sarà stracco, sarà. Ehi, oggi è tracco. Vada al telefono. Vai, grazie. Sta riposando. E chi è questa fotoscala? Chi è che non sta uscendo? Tutto rotto sta uscendo. Sono io, Bassino. Marino. Sono io, piccolino in giro. E sei piccolino, quando si capisce che stai modulando. Pio. Grazie, tu lo senti Pio? Arino, fa un passaggio a vedere se mi scoppi, io ti scoppio Pio. Ma molto Pio mi senti? Ti sento malissimo. che sono lontano da voi. Stai facendo ben male, Mari. Segnale fondo scala radio zero. No, continui. Migliora io. Io non ho sentito per nulla. Pia pia una parolina ho sentito in blu. Basta, con il giocattolino stavo uscendo, senz'altro il giocattolino. Marino, sei tu, batti due colpi. Radio zero. Grazie, ha fatto male l'acqua all'antenna di Marino, l'ha raggiunta a Romadia. Che fulmine ve l'ha crebato, sicuramente. Avanti questo è... Non sarà Tore, no, che ha posto l'antennino a Rugani. Tore, ACC. Segnale fondo scala, grazie, proprio in collo a tutto, però il radio non veniva. E è sparito, il segnale la porta già sentiva, però non si intendeva, non è parata l'antenna in terra. Vediamo se c'è Tore. Tore, Tore senza motore, non cammina, nulla da fare, grazie, non c'è nessuno. Nessuno, una canna casera e l'acqua fa male. E allora, chissà la fine ha fatto, Gian Maria, non si è sentito. Gian Maria si è sceso in campagna a controllare gli alberi, se l'ha buttato giù tutto il vento. Non si è più inteso, ieri non si è sentito così. Ieri non l'ho sentito io, ho acceso quei 10 minuti quando sono rientrato, però non ho sentito nessuno, ma c'eri tutto lei e io. Attento Marino, ci sei? Marino, non ci sei. È uscito, uscito. Vai 27, chiamami 27. Marino. Nulla, grazie, non anda, ditelo. No, intendi, no. I 27 non si intendi, i binocchi non si intendi. Deve essere che devi fare i piedi umidi. Spariti sono. Attento, Marino, se va a scucciare Sassari. Io che dormito. Se l'ha preso il sole, non se l'ha presa grazie a Marino. O non era lui, qualcuno si spacciava per essere Marino. Grazie, si è dormito. Chi va là? Alto là. Attento, signor Tore. No, nessuno, grazie, non viene nessuno, no. Non ha ne gana stasera. Tutti morti, zio. Mamma mia, mi pare che sono tutti con un coso, con l'influenza, lei va l'Audi a Pedamuglio, è sempre lì della Romadia. Ciao! Tutti con caldi, zio. Allo? Andiamo. Bubu. Era ora, Ida, non era andata a finire, bello bene. A tutti qui si è andato in Africa. Qualcuno mi sente, ragazzi? Sì, adesso ti ho sentito, avanti. Buonasera a tutti. Marino. Andiamo bene, bubu. Andiamo male, buonasera a lui. Ciao, sono Bacchi, buonasera. E chi è questo, dice una parola sola? Dille due, non comprendiamo. Bubu. Grazie a mia bubu. E beh Luca, divertito ti sei, di la verità. Va, farà due semi. Sta avvicinando una cosetta, un goccio d'acqua, c'è la cola asciutta. Ah, e a chi ha pavidato un me, invece di travagliare, ha rubato, critichendi, e la critichendi, l'umastro, a pezzi l'ha fatto, di Albanese l'ha pigliata, di Albanese l'ha lagato, oggi, ma chi, all'operaio. Oggi non ha fatto nulla che la vendeva, non so poi la fare nulla, la vai uscito lo soli, ma la sola che la leva. Avanti, che c'è ancora? Bubu! Sì, la verità è così difendi, bussate, chiudono, marocchino, travaglieni, bovarino, la diviso tutto il bosso male, tutto scomposto, con i pantaloni dritti a stragina, stragina, così abusati dei poverini operai, oh Luca! Uia! Così è vero, Luca! Brutta storia! Sulla... Oh, dai divi non li hai raccattati, dilli che li blocchetti si buoni da un centro, a chi su, sarà bussi! Devi pigliare, mi dai, ma lì a me lo blocchetto. O io per un così, anche il sopravvicavuro albanese. E lui? Bello bene, va bene, vedi chi si dice, da me con il tono, con lo si vede nulla. Ammettilo, marocchino. Bello bene, non rispondi. Illu è un albanese. Oh, ma ti compare il licenziato che c'ho operaio, no? E di qua la mano frappicamura all'umastro. Ed è di imboscata, magari l'ha abusato un cuccato dritto alla carriò. Ma lo fate da bravi, oh, quelli bene, E lui andu! Cosa pretende il bagno che ha travagliato per un comune? Allora che bisogna gli servizi, addio. No, finita che fa invece di chi mi vede, qui c'è niente, si brucia Dio, l'aveva frustato, veniva di passare un racetto lungo, un muro, un corridoio, ma pure bello morto, ma pure per la bomba imbiancata, lo si scoppa, chi ci lo poteva fare benissimo, munda e tutto. Mandrone, ma tu queste cose devi stare attento, devi avere l'attenzione, non lo devi mai lagare, fa più male un maniaggio, se no si ne abusa, da un dito si piglia un razzo. Quando gli dico a che cosa se ne mi rispondi, ma a me mi hanno abituato così, allora che mi travagliavo in comune. Ma tu me lo devi dire, ma no che si travaglia così, a chi comune, infatti chi si deve delle prigioni non li so più assumendo, e sono delle tutti in alto. No, davvero, oh Luca! Allora, non devi dire a te che andavo sin da capo, capito? Io l'ho buccato e filmetti lui, e vedo tutto sudato, era sgoccioletti. Pensare ai pantaloni, tira a tira, va via. E la saluti a un rumeno. Ci avrebbe occupato un paio di prestelli. Allora, no, non fallo. Io mi volevo a dirigere il cantiere. Avevo visto manco una bocca, mi ha fatto rimanere in femma. Ah, è vero, grazie, è vero. A me mi dimiani che andò a stare in fabbrica e mi diceva, Graziano, scendi tu, mettili in riga tu due giorni, ti do. Lì mi vieni a parlare in tedeschi, come se mi vieni, mi parlare in assenti. E va via in un zuzzo, 3 metri alto, e le belle dritte, a chi li parlare a trotta. Ti ammazzi che femmine mia, chi li vedi pure un femmine. Dici tu sei parente di Mussolini. Allora, qui si lavora, ma va bene. Oh, ma il fatto è, lo sai cos'è Luca, che poi quando rientra a casa, fate tutto il tracco, tutto il cubuccio, hai capito? Così la piscina lo massaggia, io, hai capito? Non ho bisogno che gli fai il sacco, va giù a tessi. Ma giusto, là, ho visto chi sei, ti sei filmato e so come la vuoi. Cura bocca! È vero. Ma, Bacchi, a chi sei? Adesso si mangia un cane. Un cane grande si è azzannato, un rocchisciai. E chissà cosa l'ha fatto. Luca! Ma carità, boh. Ma ti mani posso azzannare un cane mio? Un altro cane, ma siamo buffonetti. Sicuramente Rugani di Ghita senza guinzaglio, come te l'ha visto la piscina te l'ha guantato. Speriamo che non le abbia fatto niente, e ci ha finito. Graziano? Luca? Luca? Chi è avanti? Hola, Graziano. Marino, mi senti? Ti sento Luca, buongiorno. Sto facendo un controllo, dammi un controllo, fa una cortesia Luca. Una scala si da me. Ok, grazie, ci vediamo più tardi, ciao. Ciao Marino. Beh, ma questo cane, noi siamo passati lì vicino a casa tua, grazie. Cioè, questo cane abbandonato, cioè un cane sta in strada, ecco, diciamo. Alla fine è sempre un cane abbandonato, vabbè. E stavo fermando a dargli da mangiare con Marina, solo che si è allontanato. Luca! Sta azzannato Lucani! Lucani Gioio, ma te sì! Quello piccolo! Grazie, ti è piaciuto come ti ho mandato? No, già non gli ha fatto niente, meno male. Però si l'ha pigliato in bocca, l'ha bello stratonato. E il cane suo stesso, perché c'ha quello grande e uno piccolo ne ha. Grazie, ti è piaciuto come ti ho mandato? E cosa, non l'ho guardato, ma adesso! Graziano! Non l'ho guardato, ma adesso l'hai mandato. Stamattina te l'ho mandato, la cicciolina te l'ho mandato, dai. Ok, ci sentiamo più tardi, grazie, dai, c'ho gente, ciao. Visto stamattina. Comunque ha morsicato il cane suo stesso, Lugani manna i suoi minori. Ma com'è la cuttuppa di zicchi di maletta, dai, non che del currito andendo. Se no si lo magna. Bacchi non ci sei più. Marino! Ah, ma l'ha mullato? A chi sei andato correndo in un padrone? L'ha fatto un paio di colpi e l'ha mullato. A fare così volti mi hanno tirato a sopra. Però quando lo scende lui, questo cane pisci la frigata. Quando lo scende la moglie invece sta si vedo che chiede vicino alla padrona. Cadrovaredoli si fuggi sempre. Luca! Graziano! Adesso ti sento! Dimmi Mari! Oh, sto provando un portatile, dai! Basta così, interessante che mi abbia sentito, ok dai, ci vediamo dopo, ciao! Già ti sento bene, un po' disturbato, però ti sento! Perché sono sotto nel bunker, ciao! Ciao, già ti sento bene, là, ok. Luca! Oh, dimmi. Tu bura musicato, sei di là della casa dal braccio al padrone, minimo l'ha fatto i buchi lo braccio. Capita, mica è male i sugali, mi uso argentino, E ha messo via gira, ma sta scherzando, va a finire. E a chi è andato a separarlo, a chi c'era a zannennare un minore, ha cantato a rubadrone, e l'ha avuto un mosso a braccio. Mi aveva fatto i buchi in braccio, e l'ha andato a bere. A chi gli duria un bello braccio, se si è alzato a casa Giulia. Grazie. A me non me l'aveva fatto, Luca di me, ma sta scherzando. Fa mullare i suoi minori, è andato la cucciola a badare meglio, che non lo vogliamo mullare. Ha mullato un cucciuccio e ha cantato a rubrazza, Non te lo capire, su cane, no? Andiamo bene, bubù. Chissà, lo morso che l'ha accusato a braccia, a chi ti fa di amare, si sta stata a casa Giulia. Buh, ma quando mai non ribono una bucerola e tu gas? Bubù. Sopprimerlo, sopprimerlo. C'è tu cavallo, mi, Luca, gli è poco alto, è marubù. Ma quando sono così voglio purtroppo soppressi, capito? Quando si è un padrone così, sono pericolosi. Ma lo sai perché sei girato? Perché quello là stava zannando, c'aveva in bocca l'altro cane il suo stesso, che è piccolino, di chi si non è uno chi c'è, col pelo liscio, bianco e marrone, gli vanno luci di braccio marrone. Uno di chi? Poverino. Ma fa mullare l'acqua, la vanno è bene a chi ci appoggio un braccio e chi da casa dare un braccio a esso. La trattolata è la bella mullata che si butta a bocca. E quindi non l'ha mai fatto coprire il ruccio. Ma sicuramente se si è fuggita sopra a casa Giulia, lunga. Avare così una bella giusta. Ma qua io vedo, quando lo scende con la moglie, rimane vicino alla moglie, la moglie mentre lui dice allontanini dieci metri, dice vieni qua, e subito pure. A chiedere a Isa, non hai compreso. La ubbidisce, e invece quando la parla al marito, lì si butti, tu metti vedi altri cani e la gana. E oggi la musica da esso, vedi un maestro. Passa pure il bilancio, la musica nuova. Vuol dire che l'ho abituato male. Io vengo che lo scende la sera, qua verso quest'ora, poi lo scende alle 30 di notte, a mezzanotte, alla una, tanto un'oretta, lo dà a baccurare. Durante la giornata è raro che lo vedo, che lo scende la moglie, questo cane. Ma poi io cane del genere non me ne avevo detto. Chi sulla di chi si gira va si piscia. Ma non va bene, cioè, questi cavolo di cani grandi vanno a sannare i cani piccoli. Adesso, per esempio, dove abito io, sopra di me ci abita Roberto che ha un... comunque è grosso come cane. E siccome ho saputo che l'anno scorso, 2 anni fa, ne ha ucciso uno di quelli piccolini pincher, infatti ho detto di allontanarlo. Allora, al televisore ha detto chi possiede dog argentini, pitbull, questi cani così grandi, quando lo scendi giù li devi mettere tanto di museruola, poi li devi mettere tanto di guinzaglio, quello speciale bello grosso che lo mantiene alla mano, e più c'è un'altra fibbia che te la leghi al polso. O se ti si fuggia come tu sei a mattina, e allora ce l'ha circolata al polso, allora lo puoi scendere, non lo puoi neanche mollare, a meno che non lo molli in campagna dove è tutto recitato che non può uscire, così sì. C'è stato di galera a me, chi c'ha quel cane è morsica qualche uno. Morsica, già l'hai visto su cani da poco? Se gira da rubadrone l'ha sgozzato, ha morso un cane a rubadrone. Lo so, molti cani grandi alla fine lasciano il tempo che trovano. Che non fa tenere cani del genere, a meno che non vanno a campagna, ma per poco li fidati. A me chi si... lui che va via, due dopo, ma da piccolini, quando sono diventati manni, ha già fatto in tempo a tirare un cancello, se non mi avevano mangiato, tutti e due. Addirittura. Ha girato di gambe il Doberman, quando sviluppa il cervello, non sviluppa la testa, il cervello diventa macumi, perché la testa non sviluppa e il cervello rimane racchiuso nella testa piccola e diventa una di gambe. Me l'ho scappata io con quei cani. E ce ne avevo da piccolini, piccoli, erano i due cuccioletti quando me li avevano dato. E a giù me mi fa tenere la vita in campagna della buona anima di babbo, mi si chiama. Bubù, babbo, siamo pigliati. Ma io manco non sapevo che quei cani e alla fine, una volta che diventavano grandi, impazziscono, non comprate nulla e diventano rabbiosi. Infatti a Bada si ne vede assai dopo al mangino, non ha più nessuno, proprio per quel motivo. Lo so, grazie, purtroppo è un casino, a chi si ganni sono mari. Capita, insomma, mica grosso quando currino che io sono in rabbiata. Ah, stanno proprio lo zocco di zampate in terra, rimbomba. Già lo so, grazie, lo so. Purtroppo il cane è un casino, bisogna fidarsi. A meno che è un cane addestrato. Io ho un amico che addestra i cani e ne ha cani cattivi. Fa gli addestramenti quelli, se li vedi. Ma se mandati l'amicizia, tanto li mette sempre. Ah, si dico, nome e cognome. Ma i cani, specialmente questi cani così sono inoperabili. Girano di salvetto, il coso ce l'hanno sempre, dentro di essi, a semmare, mi danno sempre. Qua sei bravo quanto ti piace, ma se poco poco gli dà di capo e ti fai la viscia. Quel tipo là, un gnadino parava a passeggiare, infatti mi l'ha passeggiato, ma l'ultima volta che si è girato la zannata, non conto era molto un padrone. Così, e poi si è accucciato vicino al padrone, e tu, è molto a chi l'ha tagliato la giugolare di Rugoso. E molto si sanguato in pochi secondi, a me da finire, ma come ha detto, ha cercato di difendersi, a chi l'ha detto pieno di grappi. Però una volta da zanna è un timullo, pensa che non vede che c'è molto, non timulla il cane. Sì, ma il cane non è scemo, è il cane secondo come lo tratti anche, capito? A secondo come lo tratti, mai lo picchiava, il cane non si ricorda di quello che gli fai. No, guarda che la moglie, visto che non stava rientrando, è andata lì, di fronte a casa sua c'era questo giardino, questo palco, è andata a tuffarlo e l'ha visto in terra molto, tutto sanguinoso. Era un cane bruciato vicino al padrone, intanto era morto, l'ha morto. Infatti ha chiamato la polizia, sono venuti quelli dentro l'ufficio, cosa diciamo, e si è buttato un cane, non si è saputo niente, se lo dovevano sopprimere o tenersi ringhiare un canile. E intanto il padrone l'ha fatto sé, che giovane un burrito. Lo so. E dunque è poco di fidati con quelli. Vedi, quello che c'è mia figlia. Dicato, è educato da piccolino, però dicato sono bravi, sono macchi, chi di niente, allora, che cane che non me ne ammento. Quale? Quello di Giussi. Quello di Giussi è Rottovale. Ah, è Rottovale. Ce n'era uno qua nel palazzo. Bravo. Oh, da piccolino, sì. Buco. Il Paoletto era, a casa mi piglia mi faceva i bici, non mi ha mai né ringhiato né niente. No, mai a nessuno. Oh, mai a nessuno, scia, parava, stava da casa sua, da zia a farsi un giretto, e non accazzava manco la figali, bravo. E il cane come un figlio, bisogna educarlo, è inutile. Ma dico, quel tipo di cane non sono aggressivi. Sembrano a chi soffeotti, no? Aggressivi, sembrano come sono loro, dalla faccia. Però sono un pezzo di bar, mio figlio hanno là, mi ci sono due, uno è mio figlio. E sono bravissimi. Mi sono male quando vedi niente, un cancello che non è gente di India, allora gli attimagna. Vabbè, comunque non mi non fidassi. Io mi ricordo, questo quello che abita sopra di me aveva due cani, uno, un incrocio, ma era grande come cane, mamma mia, era grande. C'aveva i denti come la tigre, veramente. E poi un mastino napoletano, quando bucava il cane a fura, tu vedi, niente, non si faceva vedere in giro, erano pericolosissimi. Mi sembra che dentro le scuole avrà ammazzato, non ti compare, almeno un centinaio di gatti. Perché questi cani così sono imprevedibili, mi come si può accasare un cane, una gatta accasare un cristiano. E questi cani così sono impreferibili. Non te li immaginate nemmeno giù la busta che vanno in questi cani. E poi il tipo di cane è abituato a sitazzanna. Non si muove abitualmente che non si vede fermo, proprio bloccato molto, dimmo, là. Se tu rimani fermo, fermo, bruciato da zannata, allora ti muove. Se ti agiti, non ti muove abitualmente che non vedi chi scelti il riduso, ecco. Ma già lo so, grazie, lo so, via. Io cani ne ho avuto in campagna, cani lupi, ma abbiamo cane lupo, di chi si dirà neve, ma abbiamo un capo pari a un leone. Beh, nonostante ce l'avevo da piccolo quello, l'ultimia, commenti l'ultimia, non gli ho mai dato le spalle, mai, mi sempre in facciata me la baidavo. E quando mi andate a turrare in rete, pure bene, mica mi girava e mi andate a, manco male idea. E allora mi ne turrava in rete, abbasciava un cancello e mi andate a. Perché sono imprevedibili questi cani, sono fatti così, e dentro di loro quella rabbia canina, tirano a stessi. Non lo so, grazie. Ma c'è rimasto altro nessuno, Bacchisio, Luca, Luca sicuramente si starà brossolendo qualche coccetta di pollo nel barbecue, starà approfittando che non sta piovendo. Bacchisio non lo so, Tore non si è sentito. Cosa vuoi, grazie, dimmi cosa vuoi. Si ti è rimasto baccato dalla missione, si ti è rimasto da che cosa? Un paio di 100 euro, là, abbiamo 200, 300, e sento a Luca Burro, là, bene va Luca. Sì, grande muve, e bettore. Ma il peso bianco di là è fuggito, Luca. Tore, ma stai controllando se ce li hai? No, il telefono. Sono tutta la dismisacciamento anche sul call center. Oggi a Baira, Bari. Bari non so cosa. Hai compreso? Sono mangiato ancora prima di venire. Era Milano, Lombardia. Il lato Milano cosa? Ah, mi sono cominciato a girare i cattoli. Tu quando squilla rispondi, gli dici una parolaccia e sarri. Ma io non ne rispondo nemmanco. Anche qua su, suonare le caccio, non cosa se gagliamudo. Se no non rispondi, guardi, no, già la vedi da dove l'ha chiamata. E non rispondi neanche. Ma... sì, se no, se gagliamudo. Riprendi lui. Ehi, ma basta non rispondi, io la giocante la ci bloccate di chi si indumare, un bel. Ogni volta che chiamano, gli sardani, oppure gliela chiudo io la chiamata, vado nelle impostazioni e glielo blocco. Ma io manco le rispondo, a chi ve scritto Italia, ve scritto e chi si cazza a balle, manco ci rispondo. Io pago in casa telefono e internet ogni due mesi con Vodafone 33 euro, no 60, no 63 euro ogni due mesi, praticamente 31,50 euro al mese, telefono e internet. C'avevo la TIN, il contratto 32 euro e se ne fatto i battiti e mi hanno alzato a 53 e l'ha aiutato la distretta. E mi ho messo a Vodafone. Vabbè, ma tanto sono tutti io, ma sei ladri. Sì, più fra due anni, come ti ha detto il contratto, c'ero scritto che fra due anni me lo abbassano a 29, dovrei pagare fra due anni. Per adesso pago 31,50 al mese per due anni. Dopo due anni dovrei scendere a 29. E la giudizio, guardate a voi, la prima che mi vedi vi do quella risetta. Già è vero che mi vedo che c'è 80 euro di cauzione che devi pagare, però fino a fanculo, devi la giudizio, c'è la rettone. perché lei la disetta la tiglielo data per quel motivo, vabbè, di davo a voi. Beh, grazie, so per ne vedere organi che... Io a Montebianchino l'era nebula nel fuoco. L'ha fatto vedere al telegiornale, a che canale era? A Vigliori, no, a... A Rai Polo, me l'ha messo a Rai 3. A Rai 3 mi sembra, l'ha fatto vedere. Sì, me lo so che ne andava io. Che? Ma se vogliamo buoni fuoco chi si direttamente? Che sta di preso, si scende di so. E l'ha preso con ciucciare di si è cercato un cane maro. Boh. Oi oi. Oi oi, andiamo per andiamo. Luca. Fanatese. E se la capisci a Ruscelli. Mi sa che stava a tutto mi arrivare, il Tore. Cos'è? Ho detto che Luca è Ruscelli, che sono un buccone che ha ammazzato due animali. Cosa ce l'ha fatto? Il patasciutto ce l'ha fatto. E allora? Andiamo, e andiamo. Ora, Vigliolina è il telegiornale. No, Rai 3, lo stanno dando adesso, però è già passato qualcosa del cane. Già lo so, già lo ridanno dopo. Sì, a mezzanotte. Va bene, io chiudo, mi devo fare l'insulina, sono le 8 meno 5. Va bene, ciao Tore, buona cena, buon tutto. Ciao Luca, anche a te, buona cena, buon tutto. Saluti da parte di Paoletta Marina. E ciao Luca, Flipper, se l'ascolta e anche chi è in ascolto. A tutti gli ascoltoni. Riprenditela tu, Tore, e chiudo. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime. Ok. Riprendetela Luca. Ciao, grazie, salutoni, sono da Paoletta, anche da parte di Marina. Buona cena, a domani, ciao. Qua sta facendo vedere quella balena che ha spiaggiato in Sardegna. La rabbia. Attento, Gio Maria, ci sei? Come via. È molto bagisso, una balena. Gio Maria, ci sei? Luca! Gio Maria, tu sei? Che chiama? Ti sento. Che chiama? Ciao Gio Maria, ascolta. Poco fa sono entrato su Cibitalk, no? E c'era Polverone che ti stava cercando. Io ti ho detto che tu su Cibitalk non c'entri mai, non ti interessa. E ti ho detto che ti poteva trovare sul canale 23 oppure in PNR. Capito? Ok, non ho capito chi, però lo giuro, buonasera comunque, buonasera anche agli altri. Non ho capito chi era. Polverone, ciao Giovanni, Polverone, ci stava cercando, Polverone. Ah, io ti ringrazio lo giuro. Sei pazzese, non l'ho sentito, Sei pazzese 23 dalle 4. Io gli ho detto appunto che ti poteva trovare o sul 23 oppure in PNR. Infatti gli ho dato la frequenza, gli ho dato. Non lo so se ti chiama oppure, non te lo so dire. Cioè, ho avuto modo solo di dire quelle cose lì, perché ha chiesto subito di Gio Maria. Gio Maria, Gio Maria lo trovi o sul canale 23 al baracchino oppure in PNR al canale 446 081.25.025. E dunque ho detto vabbè, grazie, ti ringrazio, ci siamo salutati e basta, e non ci siamo più sentiti, abbiamo chiuso. Ok, grazie Giù. Ma effettivamente se non lo sentito, se lo risetti gli dai il numero mio, già ce l'hai tu il numero, anzi no, sì, già ce l'hai il numero del telefono mio, perché quello di casa non ce l'ho più, me l'ho tolto, però quello di telefonino ce l'ho. Eventualmente glielo dai Giù. Sì, senz'altro Gio Marino, non ci sono problemi, se lo sento, senz'altro, tu, visto che mi stai autorizzando, gli do il tuo numero di telefono. Così ti potrà chiamare direttamente al telefono e almeno così siete sicuri di sentirti. Va bene Gio Maria, ok. Adesso l'ambasciata te l'ho fatta, dunque ti saluto, dai. Ciao, sto guardando la televisione, ciao. Ti ringrazio, Giù, anch'io mi sto guardando la televisione, stavo ascoltando a loro. Ok, grazie Giù, ci sentiamo, ciao. Tore, riprendi, scusate. Luca, ci sei? Ehi, a Gio Maria. Buonasera, mi stavo ascoltando, ma stavo guardando un film a televisione. Ok, dai, buon presumento, giù, saluto anche agli altri. Sì, già, saluto anche a Giulio se mi ascolta. Ciao Giulio.